G. Ascolta e controlla. Il rappresentante di libri. Buongiorno, entra. Accomodati. Allora, dimmi che cosa desideri. Ah, tu desideri che io acquisti una enciclopedia? Senti, per il momento non ne ho bisogno. Ritorna un'altra volta e portami anche il catalogo della casa editrice.